Letture di Radio 24. Il signor Milko dirigeva un'azienda di ricambi meccanici in Bulgaria. Poi la crisi, l'azienda fallì. Prima che fosse troppo tardi, si mise da parte una piccola somma per venire a vivere in Italia da un suo cugino. Dopo qualche tempo, i soldi che aveva messo da parte finirono e così decise di fare il barbiere da strada. Clochard per scelta, a bordo della sua bici bottega, dispensa ottimi tagli per 2 euro per le strade di Roma, che sono diventate il suo salone di bellezza all'aperto. A Roma è possibile farsi un taglio di capelli impeccabile per soli 2 euro. Basta sapersi adattare al salone all'aperto di Milko il Bulgaro. Per scelta Clochard e barbiere di strada. I media lo hanno solennemente lambito. Al momento galleggia in rete la sua rivista a una web TV e l'annuncio della sua esistenza da parte di un'agenzia specializzata nel sociale. Non lo vedremo però ospite di qualche talk lacrimoso, perché Milko non ha nulla dell'aspetto del derelitto. È piuttosto un bel signore sulla sessantina, con una barbetta grigia perfetta, occhiali a mezzo naso portati con il laccetto al collo come un intellettuale radical chic, bomber rosso alla moda, mani agili e ben curate e inanellate come quelle di una rockstar. Mentre il traffico della capitale gli rumoreggia accanto, le sue dita si muovono svelte e sapienti tra forbice e pettine. Ora si arrabatta tra i capelli crespi di un nordafricano, ora in quelli lisci di un cingalese, ora tra le radure di un nostro connazionale che ha deciso di approfittare di quel servizio di raffinata tonsura on the road al prezzo politico di 2 caffè. Milko da 7 anni arriva quasi tutti i giorni sotto le arcate di Porta San Lorenzo con la sua bicicletta modificata da barbiera mobile, quindi prende possesso della postazione strategica per intercettare il via vai degli indigenti verso l'ostello della Caritas che si trova di fronte. Il bulgaro, mani di forbice, vive per strada, ma non appaga chi volesse confezionare su di lui una bella storia, fatta di vita randagia e pietà pelosa. Lui non nasce povero e nemmeno barbiere, anzi, dai suoi modi garbati e dalla sicurezza che ostenta in ogni sua parola è facile intuire che ha vissuto tempi notevolmente migliori. Milko, come tanti dei suoi connazionali, è reduce dal disastro dell'economia della Bulgaria del 1989, quando assieme al comunismo sparì il mercato dell'Unione Sovietica. Prima della congiuntura Milko se la passava bene. Dirigeva un'azienda di ricambi meccanici a Strago Zagora. Quando la crisi si mangiò tutto, mise assieme il suo tesoretto di $30,000 e partì alla volta dell'Italia dove aveva un cugino. Col passare del tempo i soldi diminuivano. Così un giorno mi sono seduto su una panchina e ho cominciato a pensare alle cose che mi piaceva fare. E ho scelto questo mestiere, facile, poco faticoso e che soprattutto mi permette di lavorare quando voglio. Milko ha semplicemente applicato il suo talento a un nuovo tipo di impresa. Si è inventato così il barbiere di strada. Faccio tante persone e ora faccio tutto con il cuore. Ho organizzato tante persone e ora figuriamoci se non so organizzare la mia vita. La bici bottega mobile sembra studiata a perfezione per contenere armamentario professionale, seggiolino per il cliente, specchi, porta bottiglie per drink di cortesia compreso nel prezzo, vino o birra, ministero che diffonde musica, sempre bulgara, per creare atmosfera. Tutto sempre rigorosamente all'aria aperta, alle spalle della Chinatown che da Piazza Vittorio si mangia ogni giorno locali e negozi, con quel mix di elettronica, ombrelli, detersivi e addobbi che ingloba l'offerta buona per tutti e uguale ovunque. Forse sono proprio i cinesi a cominciare a guardare con qualche sospetto la concorrenza bulgara di taglio e sfumatura a prezzi stracciati. Nemmeno loro sono riusciti a scendere sotto i 5 euro per lo stesso servizio. Ora sono costretti a vedere che anche gli italiani, che più sentono la crisi, cominciano a preferire quel signore distinto e gentile, che riesce perfino a conversare. Milko almeno non è uno stacanovista, lavora solo di pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 19, poi stacca, ripone tutto nella bicicletta e pedala verso la periferia, dove è parcheggiata l'automobile che gli fa da casa. Non ci tiene a diventare ricco, lui lo è già stato nella sua vita, ora gli basta potersi dire un uomo libero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sotto le forbici del barbiere Clochard di Gianluca Nicoletti, pubblicato dalla Stampa di giovedì 6 gennaio. Letture di Radio 24. Rubrica digitale ed editoria digitale. Chi sopravviverà meglio e per quanto? Il formato MP3 esiste da 17 anni ormai e negli ultimi 10 anni è stato uno dei formati di informazione digitale più diffusi del pianeta. Il mondo della musica è cambiato ed è stato costretto ad aggiornarsi. L'iPod di Apple ha permesso di contenere il fenomeno della pirateria facendo pagare file musicali ad ogni download. Ma resta ancora vastissima la percentuale di chi fruisce gratuitamente di contenuti. E cosa dire dell'editoria? Qual è il futuro dei giornali? Il presente della musica è il futuro dei giornali. Ovvero quel che è successo negli ultimi 20 anni all'industria musicale è paragonabile a quel che sta succedendo e succederà ai mezzi di informazione. Io ho visto il presente della musica ieri sera, nel salotto di casa mia. Un gruppetto di teenager si passava gioiosamente da un cellulare all'altro un po' di canzoni di successo, senza che nessuno di loro, né dei genitori, che io sappia, avesse versato un centesimo. Se intendete procedere contro di loro, esigo che siano perseguiti tutti i liceali d'Italia. Anche gli adulti, attirati da qualche melodia più orecchiabile, chiedevano ai figli di estendere il trattamento ai loro smartphone. Questo è il presente della musica. Ce n'è tanta, tantissima, molto più accessibile, eppure sempre meno persone sono disposte a spendere per farne uso. Anzi, i consumatori più forti, adolescenti e preadolescenti, sembrano via via più lontani dall'idea che per ascoltare musica, per avere musica, si debba pagare. Una riedizione non violenta e massiva dei concerti autoridotti degli anni 70, per chi c'era. Questo sarà il futuro dei giornali? Penso di sì. E non credo di essere pessimista. Ma ripensavo ai teenager del mio salotto, leggendo l'articolo di Luca De Biase sulla necessità di un'edicola virtuale per avvicinare offerte editoriali digitali e lettori mediamente disponibili all'acquisto. Mediamente, in realtà, perché il rapporto più internet citato nello stesso articolo segnala che il 65% delle persone dotate di accesso ai media digitali ha comprato contenuti. Il che significa purtroppo che un navigatore su 3 è rimasto nella vasta area dei contenuti gratuiti, selvaggia finché si vuole, ma evidentemente non così inospitale. Chissà se tra un anno saranno aumentati gli acquirenti o saranno cresciuti i navigatori non paganti. Nello stesso articolo, De Biase spiega perché gli editori siano stati così entusiasti per l'arrivo di iPad. Perché iPad, scrive, sembrava poter fare per i giornali qualcosa di analogo a ciò che l'iPod, con il negozio digitale di iTunes, ha fatto per la musica. Cioè ricreare un territorio di crescita per la vendita di giornali anche nel mondo digitale, abituato dal web a considerare i contenuti come un bene disponibile gratis. Allora sempre con l'immagine dei teenager e l'ultimo micca nella testa, We are strong, we are young, ho provato a chiedermi cosa ha fatto davvero l'iPod per la musica. Punto 1. L'algoritmo dell'MP3 prima, dal 1993, e soprattutto l'invenzione dell'iPod, sul mercato dal 2001, saranno 10 anni a ottobre, hanno aumentato accessibilità e diffusione e questo è un bene. Ma l'incremento di disponibilità ha alimentato ulteriormente l'idea che la musica sia un bene ad accesso gratuito, tranne che per Apple, ovviamente. L'iPod non ha eliminato affatto questa abitudine, ha solo offerto un canale lecito accanto ai molti e sempre più praticabili canali non leciti. Intendo per non lecito quel consumo di musica che avviene senza riconoscimento economico alcuno per interpreti, autori ed editori. Continuo a pensare che sia un comportamento non corretto in termini legali. Ma se qualche giurista vorrà dimostrarmi che sono nel torto, cambio subito idea, mi conviene anche per il portafoglio. E infatti, punto 2, se l'MP3 ha inizialmente proliferato ai confini dell'illecito, ricordate Napster? C'è da dire che l'introduzione dell'iPod non ha ridotto la pirateria. Secondo il report IFPI, Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, relativo al 2009, il 95% dei download musicali non è autorizzato e non prevede compensi per gli artisti e i produttori. Punto 3. C'è poi da fare un antipatico discorso sulla qualità. La necessità di rendere trasferibili i brani costringe a semplificarli. Taglia alcune frequenze, di fatto appiattisce il suono. È paradossale. La tecnologia permette di creare suoni prima impossibili da produrre e al tempo stesso chiede di ridurne l'impatto. È un argomento da maniaci, è vero, ma se proviamo a trasferirlo sull'informazione, diventa più percepibile. Per rendere accessibile e rapidamente trasferibile una notizia, è necessario semplificarla. I guai possono cominciare quando la notizia tutta si riduce alla sua versione semplificata e il lettore rinuncia a qualcosa. All'inizio non se ne accorge, come con i file musicali, ma se allena un po' l'orecchio potrebbe avvertire che qualcosa si è perso. I teenager del mio salotto mi guardano increduli. Lady Gaga è ricchissima, anche se ci scambiamo gratis i suoi pezzi, e ci sono continuamente nuovi cantanti che diventano famosi e anche ricchi. I ragazzi hanno ragione. Chi vive di musica ha smesso da tempo di contare sugli introiti dati dalla vendita fisica di musica. Vive di merchandising, di concerti, di strategie e promozioni incrociate con le radio e le televisioni. I fan pagano raramente per il prodotto di base, la canzone. Molto più spesso, magari inconsapevolmente, pagano per l'indotto. Pagano per appartenere a una comunità che si muove con quell'interprete o quel musicista. I dati FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, per il 2009, mostravano nel confronto con il 2006 esattamente questa dinamica. In calo la vendita dei supporti fisici, meno 19% in 3 anni, solo nel primo semestre 2010 le vendite di CD sono tornate a crescere dopo 11 anni di rosso, in aumento musica diffusa e musica dal vivo. Così chi vive di giornali dovrà rassegnarsi a considerare il suo prodotto di base, l'informazione organizzata e stampata, una voce non più dominante nei ricavi? Non lo so. Non trovo la risposta perché i teenager mi incalzano. Catone da strapazzo, hai passato un pomeriggio su internet ad ascoltare i tuoi amati cantanti di cabaret anni 60 e non hai sganciato un centesimo. E te la prendi con il digitale e il web? Avresti preferito spenderti la 13ª in vinili introvabili? Hanno ragione anche stavolta. Ho pagato solo l'accesso alla rete, non il prodotto, e mi sono sorbito qua e là qualche pubblicità invadente. Quindi i ricavi dei miei amati cantanti si sono spostati lì. Chissà se loro lo sanno. Ne dubito, perché tra le tante cose che l'iPod ha fatto alla musica c'è anche la globalizzazione, nel senso che chi canta in inglese ha tutto il mondo a disposizione, chi canta in italiano passa difficilmente il confine e riduce di conseguenza il budget. Ma non so se ho voglia di trasferire questo al mondo dell'informazione. Spero che non mi chiedano, per lavorare al giornale, di vestirmi come Lady Gaga. Su tutto il resto sono disposto a trattare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Lady Gaga e il futuro dei giornali di Mauro Meazza, pubblicato dalla Stampa di giovedì 6 gennaio.